Non può essere convertita. Il bene non entra dove è saturazione di male. Ma Dio vede e dice, basta. Troppi sono i Caini che uccidono gli Abeli. E che credete, immondi sepolcri dall'esterno imbiancato e coperto dalle parole della legge, e dall'interno in cui passeggia Re Satana e pullula il satanismo più astuto, che credete? Che sia stato Abele solo il figlio d'Adamo e che il Signore guardi benigno solo coloro che schiavi d'uomo non sono, mentre rigetti da sé l'unica offerta che può fare lo schiavo, quella della sua onestà condita di pianto? No, che in verità vi dico che ogni giusto è un Abele, anche se carico di ceppi, anche se morente sulla gleba o sanguinante per le vostre flagellazioni, e che sono Caino tutti gli ingiusti che danno a Dio per orgoglio, non per culto vero, che danno ciò che è inquinato del loro peccare e macchiato di sangue. Profanatori del miracolo. Profanatori dell'uomo, uccisori, sacrileghi. Fuori. Via dal mio cospetto. Basta. Io dico, basta. E dire lo posso perché sono la divina parola che traduce il pensiero divino. Via! Gesù, ritto sulla sua rozza predella, è spaurente tanto e imponente. Col braccio destro teso ad accennare la porta d'uscita, gli occhi che sono due fuochi d'azzurro, sembra fulminare i peccatori presenti. La piccolina ai suoi piedi si mette a piangere e corre dalla mamma. I discepoli si guardano stupiti e guardano chi va all'invettiva. La folla pure si gira, con occhio interrogativo. Finalmente ecco spiegato l'arcano. In fondo, fuori della porta, seminascosto dietro un gruppo di alti popolani, si mostra Doras. Ancor più secco, giallo, grinzoso, tutto naso e bazza. Ha con lui un servo che lo aiuta a muoversi perché pare mezzo accidentato. E chi lo aveva visto là in mezzo alla corte? Osa parlare con la sua voce chioccia, a me dici? Per me? Per te, sì. Esci dalla mia casa. Esco, ma presto faremo i conti, non dubitare. Presto. Subito. Il Dio del Sinai, te l'ho detto, ti attende. Anche tu, malefico, che hai fatto venire addosso ai miei malanni e gli animali nocivi nelle terre. Ci rivedremo. E sarà la mia gioia. Sì. E non vorrai rivedermi. Perché io ti giudicherò. Ah! Ah! Maled. Anaspa, gorgoglia e cade. È morto. Urla il servo. È morto il padrone. Che tu sia benedetto, Messia, nostro vendicatore. Non io. Dio, Signore eterno. Nessuno si contamini. Solo il servo pensi al suo padrone. E sii buono col suo corpo. Siate buoni, voi tutti, suoi servi. Non tripudiate con astio per il colpito, onde non meritare condanna. Il Dio e il giusto Giona vi siano sempre amici. Ed io con loro. Addio. Ma è morto per tuo volere? Chiede Pietro. No. Ma il Padre entrò in me. È un mistero che non puoi capire. Sappi solo che non è lecito colpire il Dio. Egli da sé si fa le vendette. Ma non potresti allora dire al Padre tuo di fare morire tutti quelli che ti odiano? Taci. Tu non sai di che spirito sei. Io sono misericordia e non vendetta. Si accosta il vecchio sinagogo, maestro, tu hai risolto tutte le mie domande, e la luce è in me. Sì, benedetto. Vieni nella mia sinagoga. Non ricusare ad un povero vecchio la tua parola. Verrò. Vai pace. Il Signore è con te. Mentre la folla se ne va piano piano, tutto finisce. Sesto comandamento. Non commettere atti impuri. È Gesù che parla. Oggi dico, non fornicate. Non volgete intorno lo sguardo cercando di leggere sul volto di uno la parola lussurioso. Abbiate carità reciproca. Amereste che uno la leggesse su voi? No. E allora non cercate leggerla nell'occhio turbato del vicino, sulla sua fronte che arrossa e si curva al suolo. E poi? Oh, dite, voi uomini in specie. Quale fra voi non ha mai messo i denti in questo pane di cenere e sterco che è la soddisfazione sessuale? Ed è lussuria solo quella che vi spinge per un'ora fra braccia meretrici? Non è lussuria anche il profanato connubio con la sposa, profanato perché è vizio legalizzato essendo reciproca soddisfazione del senso, evadendo alle conseguenze dello stesso? Matrimonio vuole dire procreazione, e l'atto vuol dire deve essere fecondazione. Senza ciò è immoralità. Non si deve del talamo fare un lupanare. E tale diventa se si sporca di libidine e non si consacra con delle maternità. La terra non respinge il seme. Lo accoglie e ne fa pianta. Il seme non fugge dalla zolla dopo esservi deposto. Ma subito genera radice e si abbranca per crescere e fare spiga, ossia la creatura vegetale nata dal connubio fra la zolla e il seme. L'uomo è il seme, la donna è la terra, la spiga è il figlio. Rifiutarsi a far la spiga e sperdere la forza in vizio è colpa. E meretricio commesso sul letto nuiziale, ma per nulla dissimile dall'altro, anzi aggravato alla disubbidienza al comando che dice, siate una sola carne e moltiplicatevi nei figli. Perciò vedete, o donne volutamente sterili, mogli legali e oneste non agli occhi di Dio ma del mondo, che ciò nonostante voi potete essere come prezzolate femmine e fornicare ugualmente pur essendo del solo marito, perché non alla maternità ma al piacere andate troppo e troppo spesso. E non riflettete che il piacere è un tossico che aspirato da qualche sia bocca contagia. Fa arsi di un fuoco che credendo saziarsi si spinge fuor dal focolare e divora, sempre più insaziabile, lasciando acre sapor di cenere sotto la lingua e disgusto e nausea e sprezzo di sé e del compagno di piacere, perché quando la coscienza risorge, e fra l'una febbre e l'altra essa sorge, non può non nascere questo sprezzo di sé, avviliti fino a sotto la bestia? Non fornicate è detto. È fornicazione molta parte delle azioni carnali dell'uomo. E non contemplo neppure quelle inconcepibili unioni da incubo che il Levitico condanna con queste parole, uomo, non ti accosterai all'uomo come fosse una donna, e, non ti accosterai ad alcuna bestia per non contaminarti con essa. E così farà la donna e non si unirà a bestia perché è scellerataggine. Ma dopo avere accennato al dovere degli sposi verso il matrimonio, che cessa d'essere santo quando, per malizia, diviene infecondo, vengo a parlare della vera e propria fornicazione fra uomo e donna per vizio reciproco e per compenso in denaro o in doni. Il corpo umano è un magnifico tempio che racchiude un altare. Sull'altare dovrebbe essere Dio. Ma Dio non è dove è corruzione. Perciò il corpo dell'impuro all'altare sconsacrato e senza Dio. pari a colui che si avvolto l'ebbro nel fango e nei rigurgiti della propria ebbrezza, l'uomo avvilisce se stesso nella bestialità della fornicazione e diviene peggio del verme e della bestia più immonda. E ditemi, se fra voi è alcuno che ha depravato se stesso sino a commerciare il suo corpo come si fa mercato di biade o di animali, quale bene ve ne è venuto? Prendetevi proprio il vostro cuore in mano, osservatelo, interrogatelo, ascoltatelo, vedete le sue ferite, i suoi brividi di dolore, e poi dite e rispondetemi, era così dolce quel frutto da meritare questo dolore di un cuore che era nato puro e che voi avete costretto a vivere in un corpo impuro, a battere per dare vita e calore alla lussuria, a logorarsi nel vizio? Ditemi. Ma siete tanto depravate da non singhiozzare nel segreto, sentendo una voce di bimbo che chiama, mamma e pensando alla vostra madre, o donna di piacere, fuggite da casa, o cacciate da essa perché il frutto marcito non rovinasse col suo trasudante marciume gli altri fratelli? Pensando alla vostra madre che forse è morta dal dolore di doversi dire, ho partorito un obbrobrio? Ma non vi sentite cadere il cuore per terra, incontrando un vecchio solenne nella sua canizia e pensando che su quella del padre voi avete gettato il disonore come un fango preso a piene mani, e col disonore lo scherno del paese natio? Ma non vi sentite torcere le viscere di rimpianto vedendo la felicità di una sposa o la innocenza di una vergine, e dovendo dire, io tutto questo l'ho rinunciato e non lo avrò mai più? Ma non sentite come scotennarvi dalla vergogna il volto, incontrando lo sguardo degli uomini o bramoso o pieno di spregio? Ma non sentite la vostra miseria quando avete sete di un bacio di bimbo e non osate più dire, dammelo, perché avete ucciso delle vite all'inizio, respinte da voi come peso noioso e un inutile impiccio, staccate dall'albero che pur le aveva concepite, e gettate a far letame, e ora quelle piccole vite vi gridano. Assassine? Ma non tremate, soprattutto, di quel giudice che vi ha create e vi attende per chiedervi, che hai fatto di te stessa? Per questo, forse, ti ho dato la vita? Pullulante nido di vermi e putrefazione, come osi stare al mio cospetto? Tutto avesti di ciò che per te era il Dio, il piacere. Va nella maledizione senza termine? Chi piange? Nessuno? Voi dite, nessuno? Eppure l'anima mia va incontro ad un'altra anima che piange. Perché le va incontro? Per lanciarle l'anatema perché è meretrice? No. Perché mi fa pietà l'anima sua. Tutto in me repelle per il suo corpo sozzo, sudato nella fatica lasciva. Ma la sua anima? Oh! Padre! Padre. Anche per quest'anima io ho preso carne ed ho lasciato il cielo per essere il Redentore suo e di tante sue anime sorelle. Perché devono raccogliere questa pecora errante e portarla all'ovile, mondarla, unirla al gregge, darle pascoli e un amore che sia perfetto come solo il mio può essere, così diverso da quelli che ebbero fin qui per lei nome di amore e non erano che odi, così pietoso, completo. Soave che ella più non rimpianga il tempo passato, o lo rimpianga solo per dire, troppi giorni ho perduto lungi da te, eterna bellezza. Chi mi rende il tempo perduto? Come gustare nel poco che mi resta quanto avrei gustato se fossi sempre stata pura? Eppure non piangere, anima calpestata da tutta la libidine del mondo. Ascolta, sei un cencio lurido. Ma puoi tornare fiore. Sei un letamaio. Ma puoi divenire aiuola. Sei animale immondo. Ma puoi tornare angelo. Un giorno lo fosti. Danzavi sui prati fioriti, rosa fra le rose, fresca come esse, o lezzante di verginità. Cantavi serena le tue canzoni di bambina e poi correvi dalla madre, dal padre. E dicevi loro, voi siete i miei amori. E l'invisibile custode che ogni creatura ha al fianco sorrideva della tua anima bianco-azzurra. E poi? Perché? Perché hai strappato le tue ali di piccolo innocente? Perché hai calpestato un cuore di padre e di madre per correre ad altri cuori insicuri? Perché hai piegato la voce pura a menzognere frasi di passione? Perché hai infranto l'ostello della rosa e violato te stessa? Pentiti, figlia di Dio. Il pentimento rinnova. Il pentimento purifica. Il pentimento sublima. L'uomo non ti può perdonare? Neppure tuo padre potrebbe più? Ma Dio può. Perché la bontà di Dio non ha paragone con la bontà umana e la sua misericordia è infinitamente più grande della umana miseria. Onora te stessa rendendo, con una vita onesta, onorevole la tua anima. Giustificati presso il Dio non peccando più contro la tua anima. Fatti un nome nuovo presso Dio. È quello che vale. Sei il vizio. Diventa l'onestà. Diventa il sacrificio. Diventa la martire del tuo pentimento. Sapesti bene martirizzare il tuo cuore per far godere la carne. Ora sappi martirizzare la carne per dare un'eterna pace al tuo cuore. Vai. Andate tutti. Ognuno col suo peso e col suo pensiero, e meditate. Dio tutti attende e non rigetta nessuno di quelli che si pentono. Il Signore vi dia la sua luce per conoscere la vostra anima. Andate. Settimo comandamento. Non rubare. Marzo 1945. Dio dà ad ognuno il necessario. Questo è in verità. Cosa è necessario all'uomo? Il fasto. Il grande numero di servi. Le terre cui i campi non si possono contare. I banchetti che vedono da un tramonto sorgere un'aurora? No. Necessario all'uomo è un tetto, un pane, una veste. L'indispensabile per vivere. Guardatevi intorno. Chi sono i più allegri ed i più sani? Chi gode di una sana vecchiezza serena? I gaudenti? No. Quelli che onestamente vivono, lavorano e desiderano. Essi non hanno veleno di lussuria e rimangono forti. Non veleno di crapule e rimangono agili. Non veleno di invidia e rimangono allegri. Mentre chi desidera avere sempre più uccide la sua pace e non gode, ma precocemente invecchia, arso da livore o da abuso. Potrei unire il comando del non rubare a quello del non desiderare ciò che è d'altri. Perché infatti il desiderio eccessivo spinge al furto. Non è che un passo breve da questo a quello. È illecito ogni desiderio? Io non dico questo. Il padre di famiglia che, lavorando nel campo o nell'officina, desidera trarne di che assicurare pane alla prole, non pecca in verità. Anzi ubbidisce al suo dovere di padre. Ma quello che invece non desidera altro che godere di più, e si appropria di ciò che è d'altri per giungere a godere di più, costui pecca. L'invidia. Perché, che è il desiderio della cosa altrui se non avarizia e invidia? L'invidia separa da Dio, figli miei, e unisce a Satana. Non pensate che il primo che desiderò la roba d'altri fu Lucifero? Era il più bello degli arcangeli, godeva di Dio. Avrebbe dovuto esser contento di questo. Invidiò Dio e volle essere lui Dio e divenne il demonio. Il primo demonio. Secondo esempio, Adamo ed Eva tutto avevano avuto, godevano del terrestre paradiso, godevano dell'amicizia di Dio, Beati nei doni di grazia che Dio aveva loro dati. Avrebbero dovuto accontentarsi di questo.